Vivi tutto con passione, so che questo può far male. Perdi spesso l'occasione e ti butti in brutte storie. Forse a te piace soffrire, ma non credo che il dolore faccia rima con amore. Forse non c'è via d'uscita, questa giostra che a chi sale sbatte e frulla bene il cuore. Perché quando parte, parte, sai che non si ferma mai. Perché c'è solo un rimedio, e il rimedio quello vero è che vuoi sentirti amata, vuoi sentirti innamorata di chi ti mostri il mondo per quello che c'è. Il sole sorgerà davvero quando ti giri nel cuore della notte, quando senti le frasi e le porte rotte, quando a volte ripeti a te stessa che sei qui da sola insieme ad un mostro, quando un giorno da bello diventa brutto, quando dentro al tuo volto c'è solo pianto, quando un giorno non passa e non passerà, quando riscopri la vita e tutto poi finirà. Vivi tutto con passione, sai che questo è solo un bene. Ora sai che ponderare non è essere insicure. Oggi splende un gran bel sole e affacciandoti al balcone ti concili con la vita. Lei non era mai sparita e ora quello che ti assale è solo il tuo buon umore. È una musica che parte, parte, non si ferma mai. Perché ora hai quel rimedio, il rimedio quello vero è che ti senti amata, puoi sentirti innamorata di chi ti mostra il mondo per quello che è. Il sole ora splende alto quando ti giri nel cuore della notte ed abbracci chi ha preso le tue coperte, quando a volte ripeti a te stessa che non sei da sola insieme ad un mostro, quando un giorno da brutto diventa bello, quando dentro al tuo volto c'è un sorriso, quando un giorno ti passa in felicità, hai riscoperto la vita e tutto quello che dà. Hai riscoperto la vita e tutto quello che dà.